speriamo un po' cosa fare domani, dai. Se posso anche uscire con questa buona schiena, non so, perché non ce la faccio nemmeno a camminare molto, ho capito già, e non so se posso, se mi sento bene vado senz'altro, ma diversamente no, se non posso restare molto in piedi, non c'è niente da fare, capito? Vabbè dai, già, ti saluto di nuovo, saluto lì, alle prossime, dai, ci sentiamo, ciao, già, grazie del questo, ciao. Ciao Giulio, mi ha fatto piacere chiamare e auguri per la salute, là. Speriamo bene che ci metta tutto per il meglio. Kappa, salutone a te il tuo cuore, ciao, ci sentiamo, buonasera. Ciao Gianni, ciao, saluti in famiglia, ciao. E sono sorrente un ogammi. Buona passeggiata, allora ci stanno a passeggiare, ma non ci sarà caldo. Attenzione, prego, non parlare di... Va bene, già fra, ok. Facendo la porta. C'è uno che chiama sotto, non so se lo senti, Claudio. Chi è che chiama sotto canale 10? Ma è il posto in realtà è qua. Sì. Non ho capito già, fra, vedete? Attenzione, mamma, ascoltate. Ah, Gianpaolo, sì. No, non ti sentivo, Gianpaolo, che c'era Gianfranco che aveva più forte di te, non so se lo senti. Ah, per quello, eh. Ciao. Ma da Porto Torres. Però c'è un altro sotto più piccolino che sta sempre chiamando, poverino, nessuno sente. Avanti che chiama sul 10. Ma ho sentito a Gianpaolo Silvestro adesso già. Sì, a Silvestro, avuto la docente a Silvestro, io non ho problemi ad ascoltare, tanto è vero che sto ascoltando anche quest'altro che ti chiama disperatamente, Claudio, ma tu non lo senti, ed è molto più basso di Gianpaolo. Qualcuno chiama a me, se chiamano ti rispondo io, non avevo anche l'attenuatore, non me ne ero neanche accorto, ma Gianpaolo già l'ho sentito anche con l'attenuatore. Chi è che chiama Sassari Avanti? Chiama Avanti? Ad esempio quello che stai usando tu è un microfono molto buono, però come concezione è molto vecchia, quindi si sente molto bene, c'è una radio molto fedele, però non c'è la cancellazione del rumore, perché sotto si sentono benissimo le persone che parlano, è il tipico effetto Turner. Io invece utilizzo sempre per una questione di praticità quelli palmari, perché ce l'ho solo a tavolo, però impedisce troppo. Quando ci sono vari apparati inizia a essere scomodo, anche perché ce ne vorrebbe uno per ogni apparato dentro di noi, invece così lo appoggi ed è più comodo. Tutto lì, cos'è un timer, vero quello che sta? No, sto il 440 con l'1160. Ma io se voglio mi chiudo la porta perché c'è la mia stanza, ma la lascio aperta perché gira l'aria dal salone a qua, capito, con la, quello che senti il televisore. Questo è l'MC60 con il 440. Io di 440 ne ho tre. Ce l'ho su 430, su 440 e su 140. Su 80 non ce n'è, perché diciamo che non lo uso proprio per niente. Zero sopra zero, lo ascolto o no? Ascolto ogni tanto. Lo accendo perché li accendo tutti, però le radio operative sono il 430, il 440 e il 140. E poi l'MD100 che è collegato al 950, ma è esclusivamente in banda laterale, quindi esclusivamente solo con HF, perché io ripeto, ha tutti i settaggi e tutti i parametri perfetti perché è stato fatto al computer come la manuale. E poi me l'ha fatto Marco, perciò non si discute. Ma è proprio una chiavica, come si dice in napoletà, capito? È proprio un cesso, che più cesso non ce n'è, non c'è potenza, non c'è niente, non... questa modulazione è tutta masticata, e a non portarlo io proprio a farlo andare, è difficile che lo faccia andare con la fermata, perché la mia modulazione fa andare tutto, ma quello è proprio la radio che in AM non è stata curata per niente. Manda laterale è una schiccia, manda laterale è una HF, una set, qualità prezzo, una radio ottima. Anche in FM può andare, ma in AM è doppio, per carità. Non ci ho mai provato, ci ho provato una volta a fare proprio un passaggio, ma Gesù Cristo, mi ascoltavo in cuffie, sembravo Paperino parlando. Infatti io in AM uso solo il Kenwood e i baracchini della Fayette con TNT3. Altre radio non ne uso perché tanto non devo usarle. Infatti, ma è probabile che siano come di Yaesu, cioè sui microfoni che ho trovato di Yaesu, che siano tappati perché sai, quando li usano nei paesi asiatici hanno la voce più con tonalità diversa e quindi tendono a esaltare le tonalità che questo almeno fanno più bene. Succede questo. Così come c'hanno il vizio sia i giapponesi e gli americani su tutti gli apparati nostri a togliere sensibilità nella banda bassa, perché lì ci sono le broadcasting di città che sparano kilowatt, allora li desensibilizzano con resistenza, quindi anche io mi faccio dovuto aprire l'apparecchio, tagliare la resistenza agli attenuatori in modo da abilitare le bande bassissime e una ricezione un po' più decente. E questo è fatto dalla fabbrica per le esigenze di quei paesi lì, dove ovviamente importano molti più apparati di quello che importano in Europa magari. Però a noi ci rannicchia, ecco. Capita anche questo. Giusto, ma per fare una prova ho ordinato, ho visto su internet che ci sono i cavetti di adattazione, no? Io ho ordinato per esempio quello Yaesu Kenwood, già fatti, ben fatti, con del cavo schermato, eccetera. Adesso vediamo, appena me lo mandano, era 10 euro. Appena me lo mandano, l'ultima prova che farò è quella di inserirmi l'MC60, giusto per la M, per fare una prova in AM e FM con 950. so, sinceramente non ho provato altri microfoni perché non era il mio, ce l'avrebbero in prova e quindi non mi sono mai permesso di fare nessuna modifica. Adesso che è il mio faccio alcune prove, ma solo microfoni, che sono microfoni, perché ho l'SM20 della Icom, ma ne ho ordinato due spezzoni. Yaesu Icom e Yaesu Kimbrick, uscita praticamente del microfono. Vediamo, le provo con l'SM20 che spinge moltissimo, tantissimo, e poi con l'MC60 che insomma è abbastanza collaudato. Vediamo se il problema è del microfono, che cosa. Però ti ripeto, secondo me non è il microfono, perché la Yaesu non ha mai curato queste cose. Andavano molto bene quelli analogici, tipo il 757, 767, 747. Quelli sono di vecchia generazione, come il 430, quindi essendo analogici l'hanno un po' distinta dal PLL e microprocessori della LC, quindi lavorano bene. Ma quelli digitali che ha fatto la Yaesu, proprietà dei gesuiti, mentre invece vedi il keyboard, nonostante, per dire, io ho provato il 950 della keyboard, no? E il 940 della keyboard, e il 950 essendo digitale come questo qua, infatti è lo stesso, ha solo cambiato la marca, perché sai benissimo la Yaesu ha acquistato la keyboard e quindi sta facendo le radio in base a quelle che erano prima, no? Come TS950, l'FD950, il TS450, l'FT450 e così via, li sta rimettendo in produzione. Io non ho curato niente la M, mentre ti ripeto, la keyboard, il TS950 andava molto bene in M, certo non era una grande spinta di watt, perché mi pare arrivasse sino a 45 watt e poi andava in negativo. Però tu lo mettevi a 20 watt e lui saliva a 40-45, e se aveva una modulazione simile a questa non è che cambiava molto. Sì, ma quello qua è stato sempre che la Kenwood ha messo sempre un po' più d'attenzione alla M degli altri, sia alla Icom anche, la Yaesu della M non aveva mai fregato niente, anche perché tanto dicevano oramai questi utilizzavano queste bande laterali, quindi continuano a curare moltissimo la CV, nonostante la CV diciamo dovrebbe essere un pochino più obsoleta anche dal punto di vista tecnico oramai, però vabbè, noi preferiamo la Kenwood, ma per la M sicuramente enormemente superiore. Vabbè, qua io sto spegnendo tutto perché qua è una cosa impossibile, qua segna 30 e quindi voglio far raffreddare perché c'è troppa roba accesa, dovrò spegnere anche il computer, quindi di conseguenza devo anche spegnere la radio, perché le radio che ci sono qua sono tutte collegate al PC, quindi quando il PC è acceso sono accese anche le radio e viceversa. Ed è un forno, soprattutto in questi giorni, aspettiamo la prossima settimana, credo dopo mercoledì dovrebbe iniziare a scendere sta calura. Eventualmente rientro più tardi, adesso mi vengo un po' fuori a cercare il fresco. Ma più tardi qua, ci sentiamo. Ciao Gianfra, se hai un po' più di fresco sono qua in ascolto, io non c'è problema. Ci sentiamo dopo, ci sono qua. No, qua è... ci sono sui 26 gradi, vabbè, adesso per la finestra sta entrando un po' di arietta fresca, ti ripeto, non si sta male. Dai, ci sentiamo dopo Gianfra, non ti trattengo. Ciao, a dopo, se qui ci riesco ancora in ascolto su 10, ciao. Ok, a dopo qua. Oh, Anto, sto provando. Dimmi che va bene, perché scritto Colomero Grande, con l'MC60, come va? Di qua. No, io mi sto ascoltando in Colmoni, però no, non mi piace la modulazione. È troppo... Non lo so, c'ho il processore, l'equalizzatore inserito. I parametri non li tocco perché erano già messi a posto. Allora guarda, ti faccio sentire una cosa, questo è l'MC60, ok, per capirci. Adesso ti attacco sul microfono della Yaesu senza toccare niente, senza toccare assolutamente niente. Mi dici come, qual è la differenza, tra questo MC60 e l'MD100, quello nero. Un secondo, va. Ci metto proprio, sto staccando la ghiera, un secondo, guarda, questo è sul microfono, senti ogni cesso, lo senti, ogni gagata. Perché abbia come fatto un passo indietro, capito? Gli dà più fondo, più profondità questo qua, mentre invece quello lì era più presente. Ma non c'ha, non mi piace a me questo. L'MD100 non mi piace per niente. Hola, hola, 1, 2, 3, 4, prova radio. Non lo so. Non mi piace per niente. È molto meglio l'MC60, perlomeno io mi ascolto molto meglio con l'MC60. Non lo so. Secondo te cosa dici? Ma questo si sta tirando dietro anche il rumore di qualche ventola che hai dietro. Sembra che dia più, sia più di profondità, capito? Cioè tende a mettere in secondo piano le cose che ci sono più vicine e ad amplificare le cose che ci sono più lontano. L'MC60 con quello lì è una bomba, ti ripeto. Tra l'altro è una modulazione che a me piace molto perché non è forzata, è chiara, limpida, pulita e sembra che sia qua. Aspetta che ricambio, secondo, guarda. Però un po' imbarattolata anche. Ehi, imbarattolata giuro. Ma sto dicendo, chissà che cazzo sulla chat. Chissà che cazzo sulla chat. Ecco perché non... Adesso iniziamo a fare esperimenti qua. Anche perché ho l'altro adattatore ICOM. ICOM Yaesu, io me li ho ordinati, ma poco fa stavo guardando, ho detto ma io li avevo già ordinati tempo fa quando facevo le prove, capito? Però dimmi se devo abbassare o se devo aumentare, là così praticamente a metà, diciamo che al 50% della modulazione, così, processore inserito, i watt sono una cinquantina, va bene così. Ti picchio come positivo o negativo e poi mi dici se è andato tutto bene il viaggio, salutando anche a Chiara se li vicino a te. Il contraccambia no, non siamo andati poi alla fine, ma questo qua è di nuovo l'MC60? Sì, questo è l'MC60, ho aumentato leggermente la preamplificazione, però te la posso, quindi mi devi dire tu se lasciarla così, perché questo segna anche la percentuale, come tocco il pomello, allora così è al 50%, eccolo qua, e così è al 40%, guarda, ecco qua, così al 40%. Non metterlo al 30%. Allora così al 40%, aspetta che giriamo, ecco, e così è al 30%, 1, 2, 3, 4, eccolo qua, guarda, esattamente così, così è al 30%. No, al 20%, quindi continua a scendere. Non me lo farà passare perché poi te l'aumento, a me mi piace la modulazione bassa a bassa, guarda, così è al 20%, poi, no, così è troppo basso. 35% mettilo, lo ci puoi stare anche a metà. Sì, sì, intermedio tutto. Allora così è al 35%, eccolo qua. A me piace questo tipo di modulazione, tu però secondo me preferisci quella 40-45. Così secondo me è ottimale perché non tiri dietro, non ti tiri dietro con la ventola e i rumori di fondo. Va benissimo secondo me. Però è bello, bello davvero. stavo criticando moltissimo l'MD100, il nuovo microfono, quello nero della IAES, non so se l'hai visto ieri, che è il microfono in dotazione sua. E negli anni passati io usavo il vecchio modello che dell'MD100, capito? E quindi praticamente andava molto meglio. Questa c'è una cazza secondo me che non serve niente per la M, tenendo conto che la IAES in AM non ha mai curato molta roba, sinceramente, capito? Non ha curato mai molta roba e vabbè, non lo giaccio. Al che ho detto, l'ultima prova che voglio fare è provare MG60 con il 950, e guardando nel cassetto ho visto che c'avevo le ispezioni Kenwood IAESU, cioè IAESU Kenwood e IAESU ICOM, e IAESU ICOM. Adesso ti attacco l'SM20, hai visto quello che uso qui in VHF, in UHF, quello nero, lo stesso della ICOM? Dovrebbe essere lo stesso che stanno dando con l'857 quadribanda. Certo, 850 euro ti danno l'apparato più quel microfono lì. Allora aspetta proprio, adesso non mi ascolto più perché hanno attaccato il Moni, eccolo qua. Moni, lo mettiamo a manetta e va bene. Ok, allora aspetta, adesso io ti attacco praticamente il come si chiama? L'SM20, ok, che c'è anche la spezzone, IAESU ICOM, questo è IAESU Kenwood, e mi dice esattamente come se cambia qualcosa, eh? Ok, guarda. Per tutte montagne, ecco qua, questo qua invece è l'SM20, non ho toccato niente la percentuale, eh? E lo sento molto bene. Molto presente, molto forte, anzi picchio, molto molto forte lo sento io, è proprio questione dell'MD100 che hanno fatto una grandissima, guarda, non voglio definirlo per microfono, funziona solo in banda laterale, ma non serve a niente. Com'è la presenza dell'SM20? Ti dico la verità, non ho notato tutta questa differenza, non sono, forse per una questione di colonnina della scatola di tonno, come l'hai definita tu, non sono nella condizione di poterti dare né un controllo di picchi, quindi di Santiago, se hai picchi positivi, né tantomeno così accurato dal punto di vista della radio, perché sei molto molto simile in tutte e tre, tranne in un passaggio che avevi fatto che eri un po' imbarazzolato, ma obiettivamente guarda, non noto tutta questa grande differenza. Adesso la noto. Se non spengo il Moni, la notizia, caro mio. Se non spengo il Moni, questa radio ti puoi ascoltare direttamente dalla radio, capito? Questo è l'SM20 con sempre il 950. Io lo sento molto ma molto forte. Molto ma molto forte. Eh sì. Quello imbarattolato è l'MD100, che è veramente una grandissima cagata, se usando il termine di microfono, in AM. In AM è proprio una grandissima da buttare via alla grande, guarda, nel senso che vuole proprio buttato. Ok, va bene, questa è l'ultima prova che volevo fare, in modo che potevo usare anche questa radio in AM, visto che in banda laterale sto usando pochissimo questo periodo, molto molto poco, e quindi possiamo usarlo anche in AM, dai. Va bene, ok, d'accordo. E quindi mi hai detto, ma siete andati a, come si dice, a Olbia, eravate stanchi, dai. Break. Ho registrato il break. No, non siamo andati, poi ci sono i 4 a Cagliari, quindi c'è la possibilità che siamo giù a Cagliari. Adesso ci stiamo preparando e stiamo scendendo giù. Avanti il break, con la buonasera. Ciao, salutoni Antonio, ciao Claudio, buonasera a tutti. Un saluto, ben sentito, buon ascolto, avanti Claudio. Ok, ciao Salvatore, buonasera, ben ascoltato. Non sono abituato a chiedere controlli, ma sto usando una radio completamente diversa. Diversa vuol dire che è un digitale contro un analogico, e sto facendo l'esperimento di inserire l'MG60. Anzi, diciamo che l'esperimento è già fatto, perché il suo microfono vuole preso e buttato alla finestra in AM, ma da laterale non ce n'è, ma in AM sì. Mi dai una tua opinione, Salvatore? Eh sì, buttalo, va. Lo butto? K, sì. Sento un tono proprio brutto. Brutto. Quindi, come dico io, non c'è niente da fare. No, parlo di te, vagare. Chi vuole, basta. Va bene. Quindi non è neanche, cosa ti posso dire, guarda, l'abbasso un pochino, ecco qua. L'abbasso ancora. Oh. Ecco. Cosa dici così, Salvatore? Va meglio, oppure lo stacchiamo completamente e continuiamo a usare le altre radio? Allora, se posso dire la mia opinione, Ocla, adesso va qualcosina, ma è un'idea che va meglio, però mi sembra che questo microfono per la tonalità della tua voce non vada bene, perché credo che esalti un pochettino la gamma più bassa e tende a, sembra un brontolio del tono, non so. Anto, io non so, ma lo sto ascoltando così. Io ho un barattino che non mi permette di dare questo, di notare questa differenza. Devo dire la verità, sì, leggermente, ma poi stai parlando di due cose, una che ha fatto solamente ricetrasmittenti, un'altra cosa come la Kenwood che ha sempre curato, soprattutto nei microfoni a livello professionale, per il canto, per la musica, per tutta un'altra serie di cose, quindi è normale che il Kenwood, secondo me, a livello prestazionale di ricettività del microfono sia altamente superiore. Ma questo è un MG60, il microfono è Kenwood, se ti faccio sentire l'MD100 della Yeezy fa cagare, ripeto, perdonatemi, ma è il termine proprio che si può definire quel microfono, capito? Però in banda laterale spinge molto di più l'MD100 con questa radio. Dimmi, Gianpa. Ma dove? Di che radio stai parlando? Per regolare il tono della modulazione c'è una striscia rossa e tu non devi uscire da quella striscia rossa. Ma è la modulazione, è vero? Vabbè, certo, ma in LC quello serve solo per la banda laterale, per la M non ha nessun significato. Capito? Perché il 140 e il 80 per l'AM hanno il microprocessore di autocontrollo sulla modulazione. Quello è la regolazione per le bande laterali, per non dare la spinta oltre la linea rossa, perché altrimenti non ti capiscono. E quindi se tu ascolti in banda amatoriale, quando regolano la radio, dico metti l'LC e rimani dentro la linea, poi inserisci il processore, poi fai questo, poi fai quest'altro. Capito? Da Telli a Torvatore, secondo me, già fa la modulazione. Questo è il MG60 con 950. Dimmi la verità, Gianpa, non mi offendo, non siate modisti, perché è una prova che sto facendo, giusto per capire se è la Yaesu che in AM non ha mai curato la radio, o se appunto sono i microfoni che non servono, diciamo, in AM, che non vanno bene. e quindi c'avevo uno spezzone, ieri su piovo ho detto provando l'MC60. Dimmi la verità, si assomiglia a quella là? La senti lontananza più grossa, più brutta? Dimmi, esprimi il tuo parere positivo, non avere nessun problema. Mi puoi dire anche che fa schifo, intanto so perfettamente che la Yaesu non ha niente a che fare con la chiamo di NM. mi sono allontanato un attimo. Sì, hai osa. Un po' più discrete, capito? Quindi per me va bene così, poi un po'. Io siccome sono molto ultimo, sono molto stantio alle... Ecco qua, ecco qui, 1, 2, 3, 4, prova. Allora, questo qua è l'SM20. SM20 con 950. Diversa, è molto meno da caverna. Qual è? Tonalità da caverna, quell'altro. Ascolta, una domandona, visto che ne stavo parlando qualche oretta fa con Antonio. Ti ha mai attirato le trasmissioni utilizzando i trasponder satellitari? Attirando satellitari. Mettiamo tutto a per riuscire a sentirci senza arrivare così a manetta, cavolo. Proprio, sai che devo tenere il volume proprio anche basso basso perché sei troppo forte, proprio troppo forte, ma l'importante è sentirsi, va. Vieni, vieni Antonio. Bisogna essere più discreti, questi giochi di forza con queste cose, mi piaccio, sono altri giochi di forza. Vabbè, contento, sono attorno, ci mancherebbe. Io sono meno di uno, guarda, sono altro un po', vediamo un po', vediamo un po', guarda un po' salvato come già adesso. Prova. Guarda, dovresti scendere nei periodici dello zero. Sei sovralimentato. Come è sovralimentato? Sono una batteria a 9 volt, tu. Capito? Non so, facciamo una cosa. Vediamo un po', mettiamo qua, ecco qua, ecco. Non so, vedi un po' salvato senza concessore, vai. Ciao, ben sentito, sì, mi arrivi con un Santiago di 6, io sono in zona Cappuccini, è una radio di 4, c'è molto fruscio quando ti ascolto, in sottofondo. Stavo chiamando, secondo me lui non può sfruttare tutti gli slide del microfono che ha modificato, perché lo sta alimentando con un paio di volte in più. Se tu guardi sul piedino numero 5 forse, o sul 4, sul 5 dovrebbe essere, del connettore della Kenwood, il microfono viene alimentato con 8 volt, con 8 volt, e quindi gli sta dando di più. Vieni, scusa, il microfono, l'MC60 è autoalimentato. Certo che sì. Non mettete, aspetta che passo la chef, non mettete batterie nel vano dell'MC60. Vi avviso che qualcuno è convinto che lì ci vanno le batterie, se l'MC60 viene usato, quindi cambiate il pin, usato non per baracchini perché non va bene, ma usato in radio decametriche che non hanno alimentazione, ok, o per meglio dire che non hanno alimentazione a 8 volt, se possono averla a 4 o a 6, allora si sovralimenta con le batterie per far sì che il circuito di preamplificazione abbia quel voltaggio per poi dare il massimo dell'emissione radio. Ma non mettete nei Kenwood batterie perché va in sovralimentazione e bruciate il processore. Questo segnatevelo perché è una cosa molto importante. L'M60 deve lavorare senza batterie con i Kenwood, con l'ICOM e con lo Yaesu. Va bene. Mentre con radio decametriche di vecchia generazione, tipo l'810, l'820, l'830, l'920, il 930, non il 940, insomma tutte vecchie radio di vecchia generazione che hanno l'alimentazione a 6 volt, allora si possono mettere le batterie per far sì che ci sia quei 2 volt e mezzo in più per raggiungere il massimo della modulazione. Infatti quello che sto dicendo io è che secondo me lui, nel momento in cui usa un MB più 5 e gli mette la batteria da 9 volt, lo sta sovralimentando, lo dovrebbe utilizzare con la stessa corrente che arriva dal connettore, dall'attacco del microfono, che è a 8 volt. Vabbè, che è a 8 volt, ma non c'entra niente, perché lui sicuramente l'alimentazione non l'ha presa. Li hai inseriti tutti e 8 i fili, Luca? Li hai attaccati tutti e 8 i fili? Qua attacca caricarli tutte e 8 perché ce ne sono solo 4, perché non c'è il cambio dei canali nell'MB più 5. Vabbè, pensavo che sia sempre l'adattore, allora va bene così. Si è usato solo 4 fili, va bene così, no, non ci stanno problemi. Ok, vabbè, comunque questo è l'SM20, lasciamo l'SM20 allora, d'accordo? Lui ne ha utilizzato addirittura 3 di fili, non ne ha utilizzato 4. Se avesse, infatti c'è un filo libero che è quello dell'alimentazione, che può utilizzare per l'alimentazione, che è quello rosso. Ah, ecco, no, io veramente non le ho mai fatte quelle prove, ho sempre fatto con i microfoni quelli sui, va bene. D'accordo, Salvatore, avanti, via avanti. Sappa. Quindi ti avevo fatto la domanda prima, non ti ha mai attirato fare il radioamatore utilizzando le trasmissioni satellitari, quindi? Relativo, io faccio packet, o per meglio dire facello, emissione packet, emissione RTTY, lo faccio ancora, e poi radio, modulazione. Questa cosa di non andare in trasmissione per me sa di invalidi civili. No, perché con Antonio stavamo parlando, ripeto, qualche oretta fa, ed era una cosa che ho notato comunque che viene implementata in tantissime radio di ultima generazione, questa modalità di poter fare emissione sui satelliti. No, niente, era una curiosità. Luca! Luca non c'è, Anto, riprendi pure tu. Dove sei perso? Mi avete chiamato? Se sei in ruota non rispondi, mi avete chiamato. Perdonatemi, ma mi sto preparando per scendere a Charlie Alpha. Stai partendo adesso a Cagliari? Grazie, esatto. Vabbè che io sono andato a Carloforte, quindi. Infatti vivo curaggiomi, eh? Adesso guarda, se mi dovessi dire vieni a prendere a Carloforte, le mando l'elicottero a prendere la mia cognata, ma manco ci mi paga, ci va ogni strada, ma per carità di Dio, l'ultima punta della Sardegna, a Sant'Antio, madre nostra, esce 270 km, sa, per carità. Che ancora non è ritornato? Oh, è partito in barca da Carloforte, faceva un giretto, questa cosa poi sicuramente si fermavano da qualche parte, rientra domani ad Alghero. Parodio, come mai non te lo sei fatto anche tu? Io? No, siamo a terra a me, sono bene a terra io, non ci ando in barca, solo quello ci vuole. Oggi è ancora peggio. Ah, mi ho preso di pastiglia dopo pranzo perché mi sto intossicando, però ho lasciato questi giorni di festa, domani mi faccio l'impegnativa dal medico, vado a fare una cervicale, dopodiché vado ad Alghero al professor Medici, vediamo cosa mi dice, perché mio fratello non ci ha operato la cervicale, e io al 99%, ci vuole l'intervento e basta. Se si ha da fare si fa, non è quello, è che ci dividono 10 anni e io ce li ho già da adesso, capite proprio. Guarda, io ti dico una cosa, io sino all'età tua non avevo un dolore, sì, qualche dolorino così, ho passato i 48 anni, ho iniziato questi, è la schiena, è il braccio, è il collo, ti posso dire che io ho sempre usato la moto anche d'inverno, quindi ho sempre lavorato dove c'è molta umidità, dove d'inverno ho fatto tiesi e Dio c'è scampi liberi, attivo non a Sassari con la neve, ma come notte che avevo dormito con la finestra aperta d'estate, fulminato. L'indomani mattina mi sono svegliato, mi è stato dolore al collo. Da lì da quel giorno non mi ha più abbandonato. Da quando ero a Chiesa mi è venuto questo dolore, cervicale, col braccio. Lo sto un po', lo abbatto, con gli antinfiammatori, però abbatto, non ne prendo più, adesso faccio una lastra. E vediamo cosa mi dice l'ortopedico. Che cura mi dà, se devo fare filtrazioni, se devo. Non posso stare così. E fortunatamente, dico fortunatamente, non faccio un lavoro che mi può dare fastidio e lamentarmi anche nei confronti dei colleghi. Perché se avessi fatto un lavoro più manuale, avrei fatto tante di quelle brutte figure che Dio ce ne scampi liberi. Perché proprio un braccio non ho completamente forza di niente. Un nuovo problema alla pena. Ok, avanti, Salvatore, prendi. Cappa, io nel mentre sto continuando a fare la mia opera di copiatura dei film. Uno di questi giorni riuscirò a finirla. Tra l'altro, Anto, mi stavi chiedendo prima, che cos'hai di interessante, di ultimo uscito? O oh, cosa c'hai tu? Beh, io sto cercando, ti dico subito, Harry Potter il 2. Un attimino che qua c'è l'esperta. Il 2 ce l'abbiamo. Hai sentito? Hai sentito? No, K, il dei doni della morte, la seconda parte. Seconda parte? Ripeti cosa vuoi. La seconda parte dei doni della morte, che l'ho cercata tutto il giorno, ne ho tirato giù due copie, ma erano pessime. Mi dice Pollicina che ancora non c'è quello buono, ma ci stiamo lavorando su, quindi un po' di pazienza e arriva. Il cartello, stiamo lavorando per voi, non disturbate. Ok, quindi mi conforta il fatto che siete arrivati allo stesso mio punto, che dopo che ho fatto tanto da manetta oggi non sono riuscito a trovare una buona della seconda parte. Vabbè, mentre poco fa sono riuscito finalmente a trovare Capitan America funzionante. Io, sai che cos'è? Che noi lo stiamo cercando anche in 3D, perché io ho un sistema per poter proiettare in 3D. Vuol dire, un sistema per proiettare in 3D? C'hai il proiettore 3D o la TV 3D? I proiettori 3D. Ah, K. Ma comunque sempre con gli occhiali. K, sì sì. Perché da poco mi hanno chiesto, siccome io ho un'associazione diciamo di produzione teatrale, non è una società, un'associazione di produzione teatrale, svolgo dei lavori per l'università e da poco mi hanno chiesto appunto questo tipo di servizi. Non riuscivo a noleggiarlo da nessuna parte e alla fine li ho comprati. Mi sono fatto un taglio in testa, però posso dare, sono l'unico in Sardegna, credimi, perché ho guardato da tutte le parti. Sono l'unico in Sardegna che ti può dare questo tipo di servizio, proiezioni in 3D. Eh sì, perché in effetti non ne ho. Nel mio giro vagare non ne ho visto, ma c'è richiesta? Questo qua era per un convegno di neurochirurgia, dove il problema è che per trasmettere in 3D devi avere un tabellone su cui proiettare gli ioni d'argento. E allo stesso tempo quello non ce l'ho, l'università quello se l'è comprato. E dopodiché questa specie di sistema composto da un piedistallo particolare su cui agganci i due proiettori, perché gli devi dare un'angolazione, lo devi regolare in angolazione. Io ho comprato i due proiettori e il piedistallo, diciamo. Poi gli occhiali costano una miseria, ne trovi su internet, sono quelli a visione circolare. K. No, l'unico problema è per coloro che eventualmente vedono le proiezioni in 3D, che se non hanno tutti e due gli occhi perfettamente funzionanti, con uno solo non riescono ad apprezzare, anzi è fastidioso. dovresti sovrapporli agli occhiali normali, metti gli occhiali sopra quelli normali, in modo tale che hai un giusto bilanciamento e quindi funziona. Mi hai detto richiesta, no, non c'è nessuna richiesta, non ce la sta cagando nessuno, scusando non ce lo sta. Cappa. E devi aver fatto anche un bel investimento, perché non già quelli normali, insomma, quando vai sui Full HD iniziano a costare qualcosa, questo che è un sistema particolare, proprio perché deve esserci anche un sincronismo perfetto. Penso che ti sia costato un pochettino. In tutto un paio di migliaia e più. Un secondo che arriva. Patla. Eh sì, ci vogliono tutti, ci vogliono tutti, accidenti. No, noi ci siamo presi qui a casa il 3D l'abbiamo lasciato perdere, ci siamo presi un plasma. No, adesso poi il plasma lo stanno regalando perché stanno uscendo quelli a LED, quelli a LED proprio sono, quelli stanno, hanno un prezzo abbastanza alto, però sembrano più foglie di giornale da quanto sono fini. Gli OLED? Non ho copiato. Dico gli OLED, OLED come tecnologia. Ma cappa, sono quelli LED, sì. Eh sì, no, noi quando ho preso lo scorso anno questo qua è perché in effetti guardando la fluidità delle immagini, avendo un processore a 600 Hz, era molto più competitivo rispetto ai LED tradizionali, che poi a parità di prezzo c'erano i 100 Hz come LED. Però come risposta della gamma cromatica mi è piaciuta molto di più, ci è piaciuta molto di più perché l'abbiamo preso, sono andati a vederlo tutti e tre, soprattutto la profondità dei neri. I neri, solamente i plasma, io ho visto che come profondità riescono a esprimerli al meglio. Il LED, gli LCD in genere, ho visto che i neri è ancora una tonalità, un grigio scuro continua ad essere. Fa. Bene, riprendo un attimino dalla macchina se mi date 5 minuti che sto uscendo, dai. Fai pure con comodo, io nel frattempo cambio il DVD e metto a copiare l'altro. Tanto anche Claudio mi sembra che sia in bianco un attimo. Fate con comodo. Sì, a dopo. Allora Cla, domani si riprende? Perché ho mai smesso io. Ok, c'è ragione. Dai, ancora una settimana e mezzo. Io non ho mai smesso, sono perché stamattina ero a lavoro, quindi non ci sono problemi. Sono talmente abituato che ormai non mi frega più niente, capito? Penso solo al 27 e basta, non me ne frega nulla. Cosa devi fare? È così, è così. No, infatti ora sono uscito, ero un po' tranchino perché ieri mi ho macinato un po' di chilometri. Poi ieri sera avevo già di a cena, quindi abbiamo fatto un po' tardino. Ma stamattina mi sono alzato tranquillamente, senza problemi. Ho recuperato un po' stasera, un po' pranzo. Eravamo soli, che mia moglie ha figlia al mare il tuo giorno. sentito che le previsioni per la prossima settimana dovrebbero essere di una repentina anche diminuzione di quasi 10 gradi di temperatura. Una diminuzione così di 10 gradi vale a dire che da 30, 34, 35 che più o meno tutti i giorni così ce ne andiamo a 25, 26 gradi, ci sta benissimo alla grande. Sì, perché a quanto pare arriva un flusso d'aria fresca per cui butta giù un po' questa calura esagerata. Speriamo bene, perché guarda, anche io se tutto va bene la prossima settimana, se tutto va bene, e cioè che concludiamo questo benedetto lavoro del piffero che stiamo facendo, cavolo, appena vedo che è tutto quanto tranquillo mi prendo un paio di giorni di ferie, guarda. Io lo stesso. E vado un po'. Se mia moglie, anche lei, dovrebbe riprendere in quella data lì, Se così non fosse, o anche se fosse, non mi interessa niente. Io la mattina, come mi alzo, mi faccio la doccia, ne per la scena e vado al mare. A dormire al mare, più mi dispiace, capito? Possibilmente dove non c'è nessuno. A riposarmi, a rilassarmi, a non sentire manco la mosca volare. Tanto quest'anno la stagione è molto corta, già la gente è andata via, è andata via molto, molto prima. Quindi io penso che dalla prima settimana di settembre ci siano solo quelle persone che lavorano durante la settimana e sabato e domenica, come sempre, sia quando il tempo è bello vanno al mare, ma durante la settimana non c'è nessuno, e quindi io ne approfitto e me ne vado al mare tranquillo e sereno ad ammortizzare tutto lo stress accumulato durante l'estate. No, anch'io infatti ho bisogno di riposare, perché poi io per il lavoro che faccio, per farti un esempio, io non faccio praticamente mai straordinario, proprio perché riesco comunque a modulare tutte quante quelle che sono le esigenze e quindi l'orario da fare nel normale e ordinario orario di lavoro. Però quando ci sono questi carichi improvvisi dove comunque bisogna tirare fuori determinate cose e casomai come in questa situazione qua scrivere del software dedicato per fare determinate cose, prendo e inizio a fare straordinario a manetta, ma questo mese ne ho già fatto 32 ore di straordinario, perché le vado poi a concentrare in brevissimi spazi, e questo chiaramente, se da un lato comunque questa libertà di fare il lavoro in questa maniera mi permette comunque di soddisfare l'esigenza, però appena finisco sono pressoché morto e non vedo l'ora proprio di mollare un pochettino, non di andare al mattino come piacerebbe fare a te, però già a me piacerebbe moltissimo svegliarmi a, che ne so, a metà mattina, so. No, a metà mattina, ma neanche se mi pari, ma manco se mi pari, aspetta, sto regolando. Lasciamo così che va benissimo. Ma neanche se mi pari sabato, io anche la domenica a volte mi dice, anche con mia moglie, mi dice ma quando adesso sono tutto il mese d'agosto e praticamente non mi sono mai fermato, è una mia scelta e va bene così. Però quando io poi la domenica sono a riposo, io mi sveglio alle 7 e alle 7 poi mi alzo perché non sono talmente abituato che non c'è Cristo, capito? diciamo che oramai, vabbè, avendo la sveglia in testa, bene o male quel colpo d'occhio alle 6:30 giù di lì lo diamo assieme, perché comunque facciamo lo stesso orario con mia moglie. Però realizzo che è sabato o che è domenica, perché noi il sabato non lavoriamo, e ci rimettiamo a dormire, cioè ci riaddormentiamo proprio, come ad esempio stamattina ho focalizzato la sveglia, erano le 8:20 e ci siamo svegliati alle 10:10. Addirittura, e quindi proprio è stato proprio una, come si chiama? Perché le ho già detto, guarda, devi imparare a farti il caffè. a mettere il latte a scaldare, perché la colazione te la devi preparare da sola, perché io non ho intenzione di venire in cucina per prepararti da mangiare al mattino quando io vorrò continuare a dormire. Quanti anni ha tua figlia? 10 anni, va in prima media. Ehi, una sola mi hai? Come? Una sola mi hai? Cappa, sì. Sì, una sola. Allora sei giovane tu. Come? Ho detto allora sei giovane. Aspetta, 10 anni. Hai aspettato tanto. Non è. No, non è, ne ho 25. Ne ho 51. Quindi. Oramai. Sto aspettando per porti lì. Mi sa che non mi ha attenzione. Vabbè, ma veramente hai notato che le nuove generazioni, già anche la mia stessa, si tende a sposarsi sempre più avanti e purtroppo sarà una conseguenza, credo, questa, però la prole arriva oramai sempre più tardi. Perché noi ci siamo sposati che avevamo 33-34 anni, giù di lì, quindi figurati. Poi non abbiamo neanche avuto subito, perché abbiamo aspettato, ci siamo presi il nostro tempo da sposini. Però a ben pensarci è comunque tardi, perché per come la vedo io, cioè, si corre il rischio che quando tu stai devi dare il massimo aiuto ai tuoi figli e quindi devi avere anche una testa a posto per poter dare questo aiuto, non puoi fare la figura del nonno, perché tu hai già 65-70 anni con un figlio che ne ha 18, cioè, perché stiamo arrivando a questi eccessi adesso. Lo so. È così, Sabato. È proprio così. La realtà è quella che ci si arriva quando non viene più voglia. Io ho una figlia aveva 10 anni, fortunatamente c'erano i suoceri, quindi noi eravamo a lavorare tranquilli. Saliva mio suocero, poverino, dai, io la lì è alta di sua nonna, facciamo colazione, si preparava tutto, la mamma lasciava tutta la roba già pronta, ed era abbastanza indipendente, però se non c'era qualcuno che le facesse fare colazione, per lei non c'erano problemi. E poi la portava alla scuola, a carbonati, poi andava a prenderla all'1:30, quindi eravamo tranquilli, capito, le due. Si al lavoro, si usciva tutte e due alle 2:00, e quindi niente. Adesso le cose sono cambiate, adesso va bene così, c'è più, dopo che qui sei nata grande c'è quella routine, quindi abitualmente fai quello che devi fare, poi vai a scuola eccetera. Anche quando era alle superiori, mia figlia lo stesso, un po' dormigliona, però si alzava lo stesso, lo tanto presto, si preparava, faceva colazione, prendeva a scuola. C'era un motorino, quindi era indipendente, lo vede indipendente da subito, perché non è una cosa di stare, vai a prenderla, a portarla, eccetera, no, mi ha 14 anni. Ho visto che era abbastanza responsabile, gli ho comprato lo scooter. Insomma, a prendere la patente, che è la macchina, è stata abbastanza tranquilla e prudente, non mi ha dato nessun fastidio. 6-7, qui mi ritrae 4 che chiedono autorizzazione per il rullaggio sulla pista 5. Buongiorno, le diamo il consenso. Dove sta andando, signor Antonio? Roger, siamo in direzione torre di controllo per svolta e prendere il via per Alfa. Beati! Con che macchina stai andando? Con la centrale capore? No, negativo, stiamo andando con la fragola machine, con la pulicina mobile. No, positivo, positivo. Pensavo, ciao. Chiara, buonasera, anche se non ti ho sentito. Andate piano, ragazzi. Piano, senza fretta, adesso vi fa un bel freschetto, vi aprite il finestrino. Guarda la strada, tu Antonio, non ti girare, e poi ti viene mal di collo. Io sono dalla parte del morto, quindi non c'è problema, sta guidando lei. Capite? E poi non c'è, non è che c'è scelta se andare piano o andare veloce, questa macchina non è che va più di tanto. E non ti preoccupare, si accende e cammina anche quella. Tutte le macchine si accende e camminano, anche la tua battimobile, vero Salvatore? Ma non ti ho copiato perché qua siamo a scala di ciocca e perdi un po' il segnale, là. Lo so, purtroppo c'è un'antenna di gomma e quindi non è un casino. Cos'hai messo la base magnetica? Capa di Roger, oggi stavo finendo l'impianto nella mina. Non sei passato qua. Avrei dato una mano. Saremmo messi dentro lo fresco sotto il porticato. Avremmo finita. L'hai rosmettata quella, va bene? E qua non l'ho rosmettata, ma a passaggi brevi non ci sono problemi, dai. Però non stai fischiando, segnale ultimo. Ecco il telefono, non è fortunatamente il mio, perché il mio è parcheggiato a Buzzi, con la speranza che non se lo mangi qualche gatto. Vabbè, già te lo riprendi domani. Pappa, è ballante dalla mia parte il segnale. Adesso sei un 4-5, tendente al 4. La radio è una radio di 4, riesco a sentirti però facendo un po' di sforzo. Adesso si dovrebbe leggermente alzare, adesso siamo proprio nei tornanti di scala di ciocca. C'è Pollicina che si sta sbizzarrendo, capito? Ok, ma stai prendendo i tempi? Adesso si prende Claudio. Allora, l'importante è che l'intertempo sia sempre basso, basso. Dai, io finché ti sento, Claudio, sicuramente. Va bene, beh, sicuramente sì. Tu sentirai a me, ma io non sentirò a te. Quindi, subito dopo le buche ti saluto perché non ti sentirò, magari ti sentirò sino a Saccaggia, non lo so, facciamo una prova. Va bene, ok, avanti Anton. Scusate Bianco per me. Molto sulla piana di cose, com'era? Sento sempre, devo risentire sino quando praticamente svincoli per la salita di cose, di Furina, spero non ti sento più sicuramente. Sono un po' dentro a bassa, ho visto che era tutta manetta, un dire, per 40 non ti ho fatto mai manetta nemmeno, però picchiano molto, sui 100 l'ho portato anziché a 20, cioè era 30 watt, anziché a 30 watt di portante l'ho portato a 10, quindi siamo intorno ai neanche 50 watt modulati, 40 watt. Ci sentiamo quando rientra, perfetto, un abbraccio grande, divertitevi e fatti vedere domani sera, ci facciamo un bel chiacchiere. Ciao Chiara, ciao Antonio, buon viaggio con tutte le prossimine. Non ti sento, non è con te che devi parlare, con cosa lì, come si chiama? Fa bravo. Quelli qua per quanto? Oh, la T250. T250, che te l'ho già detto, pilota il 440, il 430, il C80 e il 140, mentre il Proxer alimenta solo il 950 e le due radio grandi, quelle che hai visto, VHF e UHF, basta. Se poi ne hai 30 ancora meglio, sappi che la spinta è maggiore del 140, ma non è che ci sia molta differenza, quindi 25 ampere sono più che sufficienti. Stai arrivando sempre, non ho problemi. Ci arrivi un po' meglio. So, ma stavamo già prendendo vabbè. Fra, io ti devo lasciare. Così, mi lasci così, non mi lasciare. Non mi lasciare. Vedi, vedi che hai riposato oggi finalmente una giornata di relax, ti è servita. Via, via, esatto, vedi cosa devi fare. Un po' di buon umore ci deve essere, perché altrimenti sarebbe un disastro totale. Con mia moglie si è tolta tanto la pressione, che ogni tanto fischia, sta facendo una cosa mia preferita, non so se per te sia valida, ma avevo voglia di delle fave secche fatte revisare a Sassarese, no? Aglio prefermo, peperoncino e dei dadini proprio sottili di lardo, proprio per chiudere la settimana, capito? Sì. No, no, a me non piacciono. Io nel menù ho già pronto i peperoni che mi stanno aspettando. Però le melanzane le mangiate a pranzo, quindi basta così, perché altrimenti sarebbe una cosa veramente allucinante. Ieri c'era un programma, un ottimo menù, e invece sono venuto a vedere Carlo Forte e ci sono toccate le pizze ieri notte. Comunque la compagnia era buona, quindi ci sono passate anche quelle, ma per la prossima volta si organizza il piatto composto. Dai Salvatore, non ti trattengo, fai le tue cosettine, io sono qua in ascolto sul 10, come sempre se volesse chiamare qualcuno rispondo, altrimenti pazienza. Ciao, buon proseguo di serata, se non ci sentiamo buon fine domenica per te e famiglia, e ci risentiamo sicuramente domani che inizio settimana, dai. Pronti per il combattimento, pronti per subire altre 35 gradi sicuramente di giornata calda. Ciao Salvatore, un abbraccio, a presto, grazie del QSO. A te Clara, troppo gentile, sì, la giornata sarà penso calda. Ok, grazie, buon tutto, ci sentiamo penso dai, sicuramente domani se non siamo svenuti tutti e due. Ok, buon tutto allora, grazie, buon proseguimento per il tuo QSO se entrerà qualcun altro in ruota, e comunque grazie per questo, ciao, ci a risentirci. Ciao Salvatore, ciao, a presto. Antonio Drobe, se mi ascolti, ci sentiamo quando rientrate, passo e chiudo. Il telefono purtroppo non c'è, è lì parcheggiato, quindi se è, chiamate a quello di Laria. Ciao. sempre bene con l'SM20 e della Icom. La Icom con la Kenwood si sposa abbastanza bene, e la Iaeso che è proprio morta completamente, fa dei microfoni che non servono proprio, un accidente. Va bene, ancora a te Uranio. Quindi, come stavo dicendo, la regione è la regione, la regione è la regione, la regione è la regione. stando a quello lì, tu stai scendendo solo con il cavo. Salvatore, come è successo a me una volta, il VL praticamente c'è, escono solo con la carta, sicuramente si è staccato il puntale, vai tranquillo. Al 200% non ci sono problemi, guarda. Bisogna passare l'antenna e per fare il VL lì, e tu c'è a cavallo. Insomma, tu per nuovo fai un fischio, si scende, si assembra, ben fatta. Di quella che facciamo noi, tra ecco di Mennato, il buon numero bravo, e via. Via del nuovo e tutto. Grazie. via, ero sotto la galleria artificiale, capito? Ti sentivo che ti risposto, però non potevo risponderti, capito? Sì, che lo ascolto, ciao Popore, buonasera, ciao anche a Spio, buonasera, vai, riprendete. Ciao Bulldog, ciao di Volta, avanti Vince. Oh, buonasera a tutti, Mirillo, comunque ti ascolto, oggi, ciao Massimiliano, ciao Claudio Spalviero. E non so chi ci sia che ho acceso in questo momento, ho acceso proprio in questo momento e buonasera a tutti comunque. Sera Luigi, allora il problema di Salvatore è che tu non ascolti, non ci sono dubbi perché qua arriva il segnale 3, adesso abbiamo fatto una prova dal trattore, arriva 5 a casa, da casa sua arriva 3 perché c'è il PL attaccato sopra. si sente un canto di messa, ma la tecla. No, non è messa, è un film. È un film e c'è questa musica in sottofondo. Dicevo, questa semente è ancora più forte dell'MC60, è allucinante. È forte, no? Lui si sente un bel... positiva. Ascolta, a me invece, sincero, però devi essere sincero, questa radiolina che sto parlando adesso, come ti sembra? Di radio è di tutto, tu mi devi dire solamente come sincero, devi essere sincero, la verità devi dire, però è come sta uscendo, se c'è qualcosa che non va. Cioè, la domanda che mi hai fatto iniziare è un po' mi preoccupa, perché tu sei benissimo, io sono una di quelle poche persone che a volte offende anche la gente quando dice il tuo microfono fa schifo. Sono abituato a parlare in termini molto sinceri. Purtroppo chiedo venia, ma il mio comportamento è questo. Se tu non mi dicevi niente, io pensavo stavi usando. Per dire la breve, hai già capito tutto, l'ana 48 con tutto chiuso. Modulazione splendida, completa, chiara, forte, bella, massiccia, da combattimento. La tua voce naturale, però con una compressione tale da, ripeto, io pensavo fosse l'ana 48, quindi non ho niente da aggiungerti, altrimenti ti avrei detto prima che me lo dicessi tu, lui, quella radio non mi piace. È bella, bella, bella e sottolineo bella. Positivo, lo volevo far ascoltare a Massimiliano Bulldoze, che lo volevo ascoltare lui, capito? Perché avevo un dubbio su questa radio e però non ho avuto modo di fargliela ascoltare, dai, lui mi pare che si è fermato, non so se si è ripreso. E siccome non gli hanno parlato bene di questa radio e la volevo ascoltare, dice se la voglio sentire, modula che la voglio sentire, se veramente va male, però se ha ripreso, se la sta ascoltando, Massimiliano, se si era ascoltato la tua radio questa. Non ha ripreso Massimiliano. No, deve essere sceso a accompagnare le signore. Stava rientrando al mare. Ma praticamente mi puoi dire che questo è il tornado. Positivo, il tornado, mi ha lasciato, dice provalo, lo voglio, era curioso, dice non voleva dire nulla, ma siccome ci sei tu e tu nelle cose sei sincero, dice se ti dicono qualcosa che stai sicuro di questo se sta uscendo male, lo voleva ascoltare lui, lo voleva attimino ascoltare lui, se era così orribile come radio. Guarda, io ti ripeto, ribadisco ancora una volta che se tu non mi dicevi che era il tornado di Max, io ero convinto che stavi usando il tuo ala 48 come facciamo a volte, con l'eco chiuso, è perfetto, ma io ho già detto l'altro giorno che poi qualcuno si è anche mezzo offeso perché pensa che la sua radio sia fuori frequenza, non lo so, io quella radio la sento perfetta, 27.075.00, con una modulazione strepitosa, strepitosa. Non so che microfono stai usando, ma per me va più che bene. No, ma lo sai cosa sto usando, Claudio? Un microfono normale di un Intec. Questo è... no, il tornado non è un Intec. Comunque un Intec è come microfono normale, un microfono normale, palmare, uno vuol chiamare, marchiato Intec. Ma stavo come tipo di quello che usi tu nel 48, è un microfono di quelli normali, sto usando. Nel 48 uso un microfono della Gain Quinto ed è molto, va molto bene perché si abbina molto bene, mentre quello invece della quello della Midran, della modulazione no, non mi piace, e quell'altro, quelli che compri, dai, che compri tu a volte, quelli lì lo stesso mi fa una modulazione molto brutta, quella invece è molto grossa, compressa e molto bella. Lui, più io, dai. Niente, no, era dubbioso, se stava vedendo un suo problema, gli ho detto, no, per me non c'ha nulla quella radio, lo ascolto bene. E allora lui era curioso di ascoltarla, lui dice, no, fammela ascoltare, che la voglio sentire modulare, però purtroppo non è stato adesso, io a Provaglia ce l'ho da dire, io non fa dire che me l'ha lasciata, però non ho avuto modo di attaccarla. E adesso l'ho attaccata in questo momento e questo la provo a vedere. Infatti il primo microfono è capitato per le mani, gli ho messo, non è che sono stato lì a provarne, e che poi ne metto altre, sono più o meno uguali, dai. Questo perché c'è il cavo morbido che allunga, che la operavo nell'area 48 questo, dai. E dai, per la modulazione lui. Non ci siamo problemi. Allora, di sigla che fa questo film. Bella modulazione Luigi, bella veramente. Io non, da parte mia non ho niente da dire. L'avevo già detto prima, chi l'ascoltava male, chi l'ascoltava qui, chi l'ascoltava là. Io ho detto per me, col microfono, per la radio non c'è niente, quindi. Ribadisco che ancora non lo perché non c'è niente, va benissimo. Oh sì, l'ho ripreso, dai, scusate, stavo facendo una chiacchierata con Daniela, ho ripreso adesso, là. Senti a Luigi con la tua radio, senti, se non me lo diceva penso che stavo usando il 48. Non ho capito, cos'è? Lo senti a Luigi con la tua radio, pensavo che stavo usando la 48. Massimiliano, sto provando quel tornado, capisci, quello famoso, l'ho attaccato, adesso lo stavo provando, Massimiliano. Bravo, ma io ti sto ascoltando, guarda, mi sono messo le cuffiette, sì, una bomboletta, una bomba. E allora vedi che... Niente, ho messo il microfono, quello vero come 48, ma è l'Inter, un microfono dell'Inter, di quelli che adoperano nel microfono, nel 48 di Gazzetti, piace questo microfono, gli fa la radio più bella, quell'Inter che è normale, l'hai capito, quello che promettono nel 48, Ehi, ormai si capiva bene, cazzo, spesso forte con la radio, io da qualche momento non l'avevo mai sentita. Ti dico che va bene, è perfettamente centrata, come ti sto ascoltando io, posso fare una bomba, non l'avevo mai sentito ascoltato dagli altri, è cazzo forte. Positivo, non era la radio, adesso sei convinto e sai benissimo come esce di radio, quando tu moduli come esce lo sai già, vedi, questa è la tua radio, capito, l'abbiamo messa, agganciata, provata, non ho fatto nulla perché qua infatti sono, come me l'hai detto tu, non ho toccato nulla, e poi c'è poco da toccare qua, il filtro, ho passato il filtro e già il filtro ho tolto, mi ero messa proprio silenziosa e basta. Ah, cazzo, una bomba proprio bella, è forte di modulazione, ti ripeto, quando ce l'hai tu, che te ne dicono gli altri, capito, è una cosa di cazzo, però quando la senti tu, la tua radio è diversa la musica. Positivo, dai, io non mi sto ascoltando, non lo sento, però l'ho ascoltata a te l'altro giorno che dicevamo, per me era perfetta, l'ascoltavo benissimo, non c'erano problemi, ma vedi, adesso la stai ascoltando da me e non so se c'è differenza da come era prima oggi, Claudio, che ha ascoltato a te, la stai ascoltando da me qua, non so se c'è, se trova molta differenza. No, io la sentivo bene sia a casa di Massimiliano che lì da te, non ho nessun problema, proprio ottimo per la truppa. Passo di radio, di sugar. Sei convinto Massimiliano, e tu per il resto è noia, convinciti Massimiliano, convinciti perché è così, capito? Quando io ti dico vai tranquillo e non ci stanno problemi, hai riuscito, ti devi convincere perché quella radio è veramente a posto. Positivo, dai, no, già va bene, dai, va bene, questo poi dai, è una radio che prende anche pochi, questo 34 canali, quindi Massimiliano, giusto? Uaua, 34 ne abbassa. Positivo, già va bene lo stesso. Ormai è abbastanza spettivo come radio, mi hai capito lui, cioè abbastanza silenzioso, va bene per modulare la casa. E peccato quello che non puoi abbassare, infatti, quanto ne hai detto, non le ho controllate. potrei anche controllare, infatti adesso te lo dico quanto infatti c'è questa radio, adesso ho aumentato e attaccata, mi pare a Rosi, sì, è attaccata a Rosi, ma non te lo dico subito se non l'hai già misurato tu. E io sono spomisura lì là. Sai che accendo la luce, mi metto gli occhiali. Bella è, bella, bella, bella, va benissimo, alla grande. Come una scala otto che mi vento vuoi. Non una convinzione che devi avere, perché anche l'altro giorno ti è uscito a farla morire. Quella radio non ha niente, dico niente perché è così. E così io ti sto ascoltando con quello 140, e guarda, ce l'ho una vita a radio, ma è talmente perfetta che si accorge delle minime. Ho provato a girare il RIT, il RIT, lo shift più 5, meno 5, ti ho portato a meno 10, più 10. Niente da fare, è sempre perfetta, e quando il frequenzimetro segna 27.075, per me tutte le altre cose che dicono sono noia. Noia positivo, va. Ah, io ci sono io, che manca qualche 100 metri, rimane a casa, poi mi scarico tutto e vi ascolto da lì, va. Oh, Massimiliano. Noia. Ma qua c'ha... Allora, 5 watt di portante bianca e 10 watt modulati quasi. Non so quello sia. Possiamo vedere che ne va di più. No, c'ha 4 watt di portante bianca questa cosa. E poi i picchi arrivano a 9, quando fischi però, eh. L'ho messo io così ci per attaccare il coso, capito? Prima la stiamo tenendo quella lì con 7 watt e ci avrò 16 watt modulati. È positivo, ma te la prova attaccata a vedere, un po' la prova la faccio. No, la prova, dai, te la dice la macchina che sono fermo qua nel piazzale, poi vi ascolto da casa, prova attaccato. Geniale, geniale. Ah, figo. Guarda a vedere, Massimiliano, com'è la situazione? La situazione è che mi si fa scendere tutto. Non so quante gliene saranno, però qua c'è fortissimo. Sono 300 watt, ne stiamo dando 300. Ti sciupa a sentire la radio. Claudio, tu sei più lontano, com'è? Parole, non ho parole. È passato da 9 a 9 a 30, non ho parole, cioè... Ti ripeto, se non mi diceva che stanno usando quella radio, me l'ha voluto dire perché sono io. Io pensavo che avesse la 48 con l'eco chiuso, cioè è una bomba, cazzo, non c'è niente da fare. Prova a dare l'altro scatto, sì. Adesso mi viene male, dai, devo fare la cosa. No, però non lo quanto spingeva, non è piccolo, mi capito, con 4 watt. E noi ci andiamo 3-4 zin. Sono 9.35 modulato il mio, oh Massimiliano qua, 9.35 modulato, cioè 9.30 quando parlo va 9.35 e secondo te andiamo male che sa radio, oh io ci sento di radio se vuoi. Signori, io vi lascio, al limite vi riprendo dopo, mi sistemo tutta la roba, se ci siete ancora, là. Buona serata, ci sentiamo più tardi, là. Via, ciao Massimiliano, abbiamo staccato il tutto. Ma va bene, dai, io mi adono un'altra poco e poi domani devo lavorare. Niente, sono scoppiando oggi, Claudio, sto scoppiando, ho mangiato troppo a pranzo, ma e sto scoppiando. Ciao Massimiliano, saluti a casa, se coincide a dopo, altrimenti a domani. Lui. No, io a pranzo un pochino, ma stanotte c'ho una favatina e me la chiudo, anzi, guarda, ti chiedo permesso di quel Rix, così vado a mangiare, se ci sei riprendiamo dopo. Comunque non toccare niente perché è una fucilata quella radio, va benissimo. Sì, dopo attacchiamo, poi quando passa se la ritira Massimiliano. Mi è venuto il padre di Maremmi, di mia nuora, che non lo conosceva, si può dire, la piccolina che se n'era andato, da Torre, se il nero, dai, che era a Bologna, e non so, tramite Facebook, lui c'ha un'altra figlia là, si è messa a controllare in computer e ha trovato il figlio, l'altro Claudio, ha provato a contattarlo e c'era il figlio, e allora sono sentiti subito al telefono la cosa, e allora ha preso l'aereo subito ed è venuto a trovare i figli, e verrà qua oggi, e ci sarà anche domani, e allora gli ho fatto un po' di compagnia, e lei è contenta perché ha ritrovato il padre, e adesso sono andato a fare un giro al ghetto, e gli ho fatto un po' di compagnia, dai. Non c'è bisogno di fare la carrà per trovare le cose, si possono trovare anche così. Vabbè Gigi, dai, ti lascio, ripeto, ottima radio, ottimo tutto, anche io oggi ho fatto un po' di esperimenti qua, ho invertito microfoni, radio eccetera, adesso sto usando l'SM20 con 440, visto che funziona bene, lo lascio stare, poi domani magari lo ricambio, metto il BC60. Ci sentiamo Gigi, dai, se non ci sei dopo fatela buona e magari ci sentiamo domani dal QRL. Ciao, buonanotte allora e alle prossimine, vado a cenare Gigi, ciao. Ciao Claudia, dai, no, io farò di sotto poco, non c'è nulla, non voglio nulla, c'è tanta roba pronta, ma proprio zero completamente stanotte, sto scoppiando, ho mangiato troppo, ho bevuto di tutto, ho mischiato tante cose, sto scoppiando veramente, niente, stanotte faccio un po' il dieta. Ciao Claudia, dai, fatti buona carica e niente, non lo so, mi trattengo, mi vado un po' in televisione e poi più tardi me ne vado a andare, dai, al limite ci sentiamo tutto domani, dai. Yeah, ciao lui, alle prossime, allora saluti a casa, ci aggiorniamo domani, ciao ciao. Ciao Claudio, ciao. Ultima volta Luigi del club, sento male, ce la puoi frequenza. Allora, ancora un chitarra di voi frequenza, sì, io lo sento bene. Non sono già lì, Luca, non ti voglio piantare in questo discorso, io lo ascolto benissimo. Meglio di così non si può, stavamo facendo tutte le prove, attaccato anche l'amplificatore e tutto, è sempre lo stesso problema, non so cosa dirvi, io guarda, ho cambiato quattro radio, adesso sto andando con l'MC, cioè con l'SM20 440 ed è perfetto, con 430 a posto, 140, 80, non so cosa dirvi, se no torniamo al discorso l'altro giorno, ci sentiamo, buona cenata, ciao. Ciao Claudio, ciao Lucarie. Lucarie, non so che dirti, dai. Lo stavo provando io, lo volevo sentire lui, Massimiliano, questa radio, e niente, non so che dirti. Guarda Luca, ti do un input. Inserisci il reader della tua radio, ok? Inserisci il reader del 140, così ti accorgi che il problema è tuo. E spostati con reader fino a sentirlo bene. Senza toccare il VFO, ok? Inserisci solo il RIT e ti sposti con il RIT. E ti accorgi che il problema è tuo, perché io ce l'ho a 00.00.27.085.00. 27.076 1.0 da Richter. Ok? No, non macchina, a dopo. Io lo sento male. Sicuramente tengo il marchio di Massimiliano. Non so come usa Richter. Sei tu spostato, dice di nome, Luca, sei tu spostato, non lui, no. Sei tu che devi centrare, che stai centrando a lui, non lui a te. Se tu ti sposti con Ritte e lo ascolti bene a punto 76, sei tu 100 Hz fuori, che non sono tanti, però con il baracchino te ne accorgi, sei tu, non lui, no. Sei tu che sei spostato di 100 Hz, capito? Vabbè, quando sarà la vedi tu e poi mi dirai se sono io o no. Tranquillo, te lo sto dicendo che è così, è così, è così. Ce l'ho anche io il C80 spostato di 100 Hz e per ascoltare bene devo tenere il ritmo inserito a centrare leggermente la modulazione. Non lo uso mai, non me ne frega mai, però è spostato, è così a tutti i dì. Lo sai, io queste cose sono pignolo preparato, io lo sto ascoltando con 4.40, con 4.30 e con 140, con C80 lo sento male anche io. Perché? Perché è spostato, lo so. Le altre radio che sono allineate perfette, è così, bastano 100 Hz in un in quelle radio lì che te ne accorgi subito, capito? Vai tranquillo che è così, comunque quando lo porti qua poi te la faccio vedere la differenza dei 100 Hz, non ti preoccupare, te lo faccio vedere davanti, perché ti attacco il frequentimetro esterno e ti faccio vedere i 100 Hz di spostamento. Sei tu che ti stai spostando su di lui, non lui su di te. E sia tu e anche l'altra persona l'altra volta che si è quasi incazzata, anche lui c'ha la radio ascoltata ai 100 Hz, è venuto da là, perché gli altri, a Luigi, che già mezz'ora qua, un'ora quanto c'è, lo ascoltano tutti bene, quindi dai, vado a cenare, ci sentiamo dopo, se coincide, se no buonanotte a tutti. Ma è stata buonanotte, cioè dopo la buona cena sono a domani, perciò ora sono qua. Perché lui ti ha dato questo dubbio, questa cosa, dice provala che la voglio ascoltare io, e ascoltandomi lui, lui mi ascolta bene lo stesso, poi io questo non lo so, sai come sta dicendo Flavio, non lo so, non so che dirvi, sono io l'ascoltata con due, tre apparati, però diciamo che quegli apparati lì erano baracchini. A Massimiliano quando stava provando l'altro giorno che dicevate che era spostato, io ho provato anche con l'8001 e mi sembrava che la frequenza combaciava, era sempre, l'ho provato con tre apparati, con tre apparati, con tre l'ascoltavo benissimo, poi erano baracchini, no radio professionali, attenzione, baracchini, poi se una radio professionale che un chievo te ne accorgi di più, saranno più sensibili a queste cose di un baracchino. Un baracchino se si è spostato poco a poco non te ne accorgi sicuramente, ma un chievo, una radio del genere, non lo so. L'audacio, vabbè, dai, non ha importanza, non fa niente, tutto a posto, cari. Ma no, spostato con il RIT te l'ascolto benissimo, a 0.76. Io in questa radio non ho mai avuto problemi, ascolto tutti bene, tutti quelli che vedo, tranne in questo momento che vado dando tu. Cioè almeno è una cosa strana, è una cosa strana, è impossibile, una cosa del genere. Io sono sicuro che è un problema di quel baracchino lì, non un problema mio. Perché a voi ascolto tutti bene, non ognuno che insulta il gabbone. È un problema di baracchino. Ma se non è un problema, non lo so. Però la radio mia non c'ha niente, perché la voi c'è a tutti, a Claudio, a Gianni Doppio Rum, a tutti, la porto bene, non ho problemi. Lui come la porto bene, la Massimiliano con quel baracchino. Tanto non sono da dirti. Positivo, tu non ti sposi, io ti ascolto sempre bene lo stesso, anche con questo, non lo so, Lucarie, dai, no, positivo, noi non siamo lì a farne una storia, no, non lo so, almeno sappiamo che per esempio con te, con cosa, non lo so, con gli altri va bene, dicono tutti che è perfetta, che è giusta, non so che dire, vuol dire quando appunto da questo coso che ci sei tu sei costretto a spostarti 75, sei passato da 76, perché 75 è giusto. Bene con tutte e tre, l'ascoltavo bene, no, perché c'era questo problema tra te e Coso e Sandro di Porto Torres, che anche lui lo sentiva soltanto come lo sentivi tu. Anche Sandro c'era questo problema, capito, che lo ascoltava fuori a lui, però noi gli altri ascoltavamo tutti bene, tranne questa radio di Massimiliano che la sentiva questa cosa spostata. Però lasci che sia pure questa radio, cosa vuoi che si dica? Non lo faccio, va bene, dai. Comunque funzionano, va bene, ma che cosa è. Lui era un po' giù, Massimiliano dice, ma la voglio ascoltare io, se veramente fa male, no? Invece l'ha ascoltata, ho visto che gli piace anche come radio, che va bene. Non so che dire, che fare. Dai, io mi faccio un po' di bianco, chiedo a me di portarmi presto, mi guardo un po' di televisione, mi do una rinfrescata adesso e poi me ne vado a andare. Io vi saluto per il momento, dai, ho fatto una prova stasera con questo apparato e niente, dai, ce la riascoltiamo dei migliori, Luca, anche per te Falchetto, se c'è qualche ascoltone in ascolto, salutoni e buonanotte a tutti. A te il microfono, Luca, e poi passalo a Falchetto. Sono rientrato. Vabbè, tu, io no, io martedì. E niente, dai, sentiamo, avanti carte, dai. Ok, convinciti Luigi che con la radio non c'è niente, dai, vai da me. Convinciti, perché ne sono convinto anch'io. Convincetevi di una cosa, che la radio HF hanno molto più sensibilità dei barattini ed è molto più facile che si spostino le radio HF di frequenza di 50, di 100 Hz che i barattini. Però convincetevi, non lo fa per tutti, capito? Perché sembra che siamo... La radio mia è quella che non si guarda mai, quella tua è quella che non serve a niente. Convincetevi, non lo fa per tutti. Perché me lo sto dicendo io, che ho esperienza in... soprattutto nei Kimwood, nelle radio HF, che penso che a Sassari 10.000 non ce ne sia neanche uno, radio amatori sì, ma 10.000 proprio, convincetevi, boh, ma siate convinti veramente, perché sembra che uno dice una cosa e uno dice l'altra, e quindi è così, la tua radio Luca è spostata di 100 Hz, punto e basta, e te lo dimostro come e quando vuoi, ma porti qua e ti attacco il frequentimetro esterno, e ti faccio vedere che spostate il centro, perché sei tu che vai a centrare lui, non lui a centrare te. Come? Io se attacco così, tanto lo sento uguale a te, perché spostate il centro, lo so, e non me ne frega niente di farla allineare, capito? Lascio stare così perché non me ne frega niente. Però le altre tre sono allineatissime, lo sento bene, con tutti i baracchini lo sento bene, tanto è vero che se tu cambi il baracchino e metti il baracchino normale lo senti bene, quindi... Ti devi convincere anche tu. Ciao Fabio, buonasera, ben sentito. Buonasera, ben sentito, ciao a Gigino, buona carica, buon tutto, buon 144, ma non lo fai, e niente, positivo al Caparoce. Allora, don Claudio, allora, capiamoci bene, porca miseria, allora, se mi ascolto bene, perché se non ascolto male, cazzo, è qua non riesco a capire. Fammi capire, no? Io ascolto bene, qualche cosa ascolto bene, a tutti quelli che ascolto bene, tranne quel baracchino, cosa c'entra la mia risposta per di frequenza? Cioè se tu non sposti di frequenza, io ascolto male il baracchino di Massimiliano e la tua non ascolto male. No, ho capito, non ci dici di quello che hai detto. Ma sono tutto fatto. Sono tutto strappato. Mi senti adesso, va un po', 1, 2, 3, provo qua, forse è il ventilatore, boh, come di caldo qua, Stai strappando. Sto strappando. Ancora. E ancora. Aspetta. Io ti ho portato tu, mi si senta. Adesso qua, va un po'. Metti il ritmo a zero di nuovo, estraccio. Metti a zero il ritmo, adesso. Adesso va bene. Cioè, ti accorgi cosa vuol dire? Comincia una cosa Luca, non c'entra niente che tu ascolti tutti bene, solo a lui ascolti male, lui può senso che a tutti tu ascolti bene, ok, però se io accendo il RIT e lo sposto, tu mi ascolti male, mentre un altro, guarda, io adesso sono, vabbè, adesso non posso fare con 440 se non mi sfaccia tutti i parametri, ma lo posso fare con 140, tutto fratello mi ascolta male, ma tranquillo. Ciao, un leggero spostamento, infatti poc'anzi ho fatto la stanno problemi, va bene. Luca, se vuoi prendere, prendi, e se non le prende il forchetto. Luca, se la radio manda, se Luca. Come stai, lui? Va bene, va bene. E allora, oggi, la Juventus sta perdendo, 2-0 con Milan, e si sta mettendo il cuore in pace la Juventus. Deve avere la sua berretta. Siccome non si può muovere, beh, domani, la novità. Vabbè, oh, vabbè che rimane lì fermo, ovviamente, che non si può muovere. E lì la bomba luce dai, andare a prendersi la bevanda. Vabbè, che c'è un amico vicino e glielo fa la cortesia, Ci conosciamo i vent'anni con me, Gabriele, per aver visto l'offerta che abbiamo. So che di me ma non l'ho mai fatto pesare, capito? Non me ne frega niente. Però quando ne approfitto non mi incazzo. Allora mi incazzo. Arriva un controllo così all'improvviso. Poi è dopo mi dite, noi ci mangiamo la caramella, una cingola, non le piace nulla. Lei sono anche fini, no, non le piace nulla, non mangia nulla. Ma dico, cazzo, comprati un paletto di caramella, un paletto di cingome. Allora lui dirà, ci si avvicina, magari arrivi anche il responsabile e mi fa il culo a me, perché si prende a un miglio di distanza, capito? E quindi altre volte lo tiro con le briglie, già mi ascolta, perché lo sa che poi se mi incazzo sono problemi suoi, e allora già mi ascolta. Stamani era la di Guglio, stamani era in forma, e domenica, oggi, poi ci sia, non me ne frega niente, basta, finito via tre, boh, finito. Boh, già di macchina io, perché l'ho aggiunto che c'è un canale. Era troppo torre, non facevo un mezz'ora. Quel vizio c'è, quel vizio però lo, sul lavoro poca benzina, perché basta l'unico controllo all'improvviso come hai detto tu e sono cazzi acidi, non vanno bene queste cose. Specialmente sul lavoro non vanno assolutamente bene. Il coso del portacenere rotondo, uno di quelli che si tolgono in quella macchina, ovviamente. sul bicchiere della birra. Io stavo guidando, siccome sono abituato, perché fumo in macchina, di quella macchina fumo, e c'era i due finestrini, teniamo un pochettino aperti e l'aria condizionata accesa per uscire, insomma, dove il fumo. Tanto se non mi dice, e tu sei gatto, vai, gli dico, ma aveva fatto un cifo di strada, ma tu non vedi che c'è il bicchiere della birra che non era un boccacelle, a Gemani sicuro, la vicina è andata un po' alla data, figurati tu. Automático, bueno.